Prima lettera ai Corinzi. Paolo, chiamato per volontà di Dio, apostolo di Cristo Gesù, e il fratello Sostene, alla Chiesa di Dio che è a Corinto, ai santificati in Cristo Gesù, chiamati ad essere santi con tutti quelli che in ogni luogo invocano il nome del Signore nostro Gesù Cristo, nostro e loro. Grazia a voi e pace da Dio nostro Padre e dal Signore Gesù Cristo. Ringrazio il mio Dio continuamente per voi, per la grazia di Dio che vi è stata data in Cristo Gesù, perché siete stati arricchiti in Lui di ogni cosa, di ogni parola e scienza. La testimonianza di Cristo si è infatti stabilita fra voi con tale solidità che nessun dono più vi manca, mentre aspettate la manifestazione del Signore nostro Gesù Cristo. Egli vi renderà saldi sino alla fine, irreprensibili nel giorno del Signore nostro Gesù Cristo. È fedele Dio, dal quale siete stati chiamati alla comunione con il Figlio suo Gesù Cristo, Signore nostro. Ora vi esorto, fratelli, per il nome del Signore nostro Gesù Cristo, ad essere tutti unanimi nel parlare, che non vi siano divisioni tra voi, ma siate in perfetto accordo nella mente e nel pensiero. Mi fu segnalato infatti sul conto vostro, o fratelli, dalla gente di Cloè, che vi sono contese tra voi. Mi riferisco al fatto che ciascuno di voi dice: io sono di Paolo, io invece sono di Apollo, e io di Cefa, e io di Cristo. Ma Cristo è diviso. Forse che Paolo è stato crocifisso per voi? O è nel nome di Paolo che siete stati battezzati? Ringrazio Dio di non aver battezzato nessuno di voi, se non Crispo e Gaio, affinché nessuno possa dire che siete stati battezzati nel mio nome. Ho battezzato, è vero, anche la famiglia di Stefana, ma degli altri non so se abbia battezzato alcuno. Cristo non mi ha mandato a battezzare, ma a predicare il Vangelo, e non in sapienza di parola, perché non venga resa vana la croce di Cristo. La parola della croce è infatti stoltezza per quelli che vanno in perdizione, ma per quelli che si salvano, per noi, è potenza di Dio. Sta scritto infatti: distruggerò la sapienza dei sapienti e l'intelligenza degli intelligenti riproverò. Dov'è il sapiente? Dove lo scriba? Dove l'intellettuale di questo mondo? Non ha forse Dio dimostrato stolta la sapienza di questo mondo? Poiché infatti nel disegno sapiente di Dio il mondo non conobbe Dio con la sapienza, piacque a Dio di salvare quelli che credono con la stoltezza della predicazione. E mentre i giudei chiedono miracoli e i greci cercano la sapienza, noi predichiamo Cristo crocefisso, scandalo per i giudei, stoltezza per i pagani. Ma per i chiamati, sia giudei sia greci, è Cristo, potenza di Dio e sapienza di Dio. Poiché la stoltezza di Dio è più sapiente degli uomini e la debolezza di Dio è più forte degli uomini. Considerate la vostra chiamata, o fratelli. Non sono molti fra voi i sapienti secondo la carne, non molti i potenti, non molti i nobili. Ma Dio ha scelto ciò che è stoltezza del mondo per confondere i sapienti. Dio ha scelto ciò che è debolezza del mondo per confondere i forti. Dio ha scelto ciò che è ignobile nel mondo e ciò che è disprezzato e ciò che è nulla per annientare le cose che sono, affinché nessuno possa gloriarsi davanti a Dio. Ed è per Lui che voi siete in Cristo Gesù, il quale è diventato per noi, per opera di Dio, sapienza, giustizia, santificazione e redenzione, affinché, come sta scritto, chi si glori nel Signore. Anch'io, o fratelli, quando sono venuto tra voi, non mi sono presentato ad annunziarvi la testimonianza di Dio con sublimità di parola o di sapienza. Mi ero proposto di non sapere altro in mezzo a voi che Gesù Cristo e Lui crocefisso. e fui in mezzo a voi nella debolezza e con molto timore e tremore. E la mia parola e il mio messaggio non ebbero discorsi persuasivi di sapienza, ma conferma di spirito e di potenza, affinché la vostra fede non si basi sulla sapienza umana, ma sulla potenza di Dio. Annunziamo, sì, una sapienza a quelli che sono perfetti, ma una sapienza non di questo mondo, né dei principi di questo mondo che vengono annientati. Annunziamo una sapienza divina, avvolta nel mistero, che fu a lungo nascosta e che Dio ha preordinato prima dei tempi per la nostra gloria. Nessuno dei principi di questo mondo l'ha conosciuta. Se l'avessero conosciuta, non avrebbero crocifisso il Signore della gloria. Sta scritto infatti: cosa che occhio non vide, né orecchio udì, né mai entrò in cuore di uomo, ciò che Dio ha preparato per quelli che lo amano. Ma a noi l'ha rivelato mediante lo Spirito. Lo Spirito infatti scruta ogni cosa, anche le profondità di Dio. Chi mai conobbe i segreti dell'uomo, se non lo Spirito dell'uomo che è in lui? Così pure i segreti di Dio nessuno li ha mai conosciuti se non lo Spirito di Dio. E noi abbiamo ricevuto non lo Spirito del mondo, ma lo Spirito che viene da Dio, per conoscere i doni che Egli ci ha elargito. E questi noi li annunziamo non con insegnamenti di sapienza umana, ma con insegnamenti dello Spirito, esponendo cose spirituali a persone spirituali. L'uomo naturale non comprende le cose dello Spirito di Dio. Sono follia per lui e non è capace di intenderle perché se ne giudica solo per mezzo dello Spirito. L'uomo spirituale invece giudica ogni cosa senza poter essere giudicato da nessuno. Chi infatti conobbe la mente del Signore da poterlo dirigere? Or noi abbiamo la mente di Cristo. Ed io, o fratelli, non ho potuto parlare a voi come a uomini spirituali, ma come a esseri di carne, come a infanti in Cristo. Vi ho dato da bere latte, non cibo, perché non ne eravate capaci, e neanche adesso lo siete, perché siete ancora carnali. Quando infatti c'è tra voi invidia e discordia, non siete forse carnali e non vi comportate in maniera umana? Quando uno dice io sono di Paolo e l'altro io di Apollo, non vi dimostrate semplici uomini? Ma chi è Apollo? Chi è Paolo? Ministri attraverso i quali siete venuti alla fede, ciascuno secondo che il Signore gli ha dato. Io ho piantato, Apollo ha irrigato, ma è Dio che ha fatto crescere. Ora né chi pianta né chi irriga è qualche cosa, ma chi fa crescere? Dio. Chi pianta e chi irriga sono una sola cosa, ma ciascuno riceverà la sua mercede secondo il proprio lavoro. Siamo infatti collaboratori di Dio, e voi siete il campo di Dio, l'edificio di Dio. Secondo la grazia di Dio che mi è stata data, come un sapiente architetto, io ho gettato il fondamento. Un altro poi vi costruisce sopra. Ma ciascuno stia attento a come costruisce. Infatti nessuno può gettare un fondamento diverso da quello già posto, che è Gesù Cristo. E se sopra questo fondamento si costruisce con oro, argento, pietre preziose, legno, fieno, paglia, l'opera di ciascuno sarà resa palese. La svelerà quel giorno che si manifesterà col fuoco, e il fuoco saggerà quale sia l'opera di ciascuno. Se l'opera costruita resisterà, si riceverà la mercede. Ma se l'opera finirà bruciata, si avrà danno. Ci si potrà salvare, ma come attraverso il fuoco. Non sapete che siete tempio di Dio e che lo Spirito di Dio abita in voi? Se uno distrugge il tempio di Dio, Dio distruggerà lui, perché è santo il tempio di Dio che siete voi. Nessuno si illuda. Se uno pensa di essere sapiente tra di voi in questo mondo, si faccia stolto per diventare sapiente, perché la sapienza di questo mondo è follia davanti a Dio. Sta scritto infatti: colui che coglie i sapienti nella loro astuzia. E ancora: il Signore sa che i disegni dei sapienti sono vani. Quindi nessuno ponga la sua gloria negli uomini, perché tutto è vostro

o ubriacone, o ladro. Con questi tali non dovete neanche mettervi a mensa. Tocca forse a me giudicare quelli di fuori? Non sono quelli di dentro che voi giudicate? Quelli di fuori li giudicherà Dio. Togliete quel perverso di mezzo a voi. V'è tra di voi chi, avendo una questione con un altro, ha l'ardire di farsi giudicare dagli ingiusti anziché dai santi? O non sapete che i santi giudicheranno il mondo? E se da voi viene giudicato il mondo, sareste incapaci di giudizi da nulla? Non sapete che giudicheremo gli angeli, quanto più dunque le cose di questa vita? Quando perciò doveste giudicare di affari quotidiani, designate a giudici i più umili della Chiesa. Lo dico per farvi arrossire. Cosicché non vi sarebbe nessuno tra di voi saggio da poter fare da intermediario tra i suoi fratelli? Ma un fratello viene chiamato in giudizio dal fratello, e per di più davanti a infedeli. Senza dire che è già una colpa per voi avere liti vicendevoli. Perché non subire piuttosto l'ingiustizia? Perché non lasciarvi piuttosto far torto? Ma voi commettete ingiustizia e recate danno, e ciò ai fratelli. O non sapete che gli ingiusti non erediteranno il regno di Dio? Non illudetevi. Né gli impuri, né gli idolatri, né gli adulteri, né gli effeminati, né i depravati, né i ladri, né i cupidi, né gli ubriaconi, né i maldicenti, né i rapaci erediteranno il regno di Dio. E tali eravate alcuni di voi, ma siete stati lavati, siete stati santificati, siete stati giustificati nel nome del Signore Gesù Cristo e nello Spirito del nostro Dio. Tutto mi è lecito, ma non tutto giova. Tutto mi è lecito, ma io non mi lascerò dominare da nulla. I cibi sono per il ventre e il ventre per i cibi, ma Dio distruggerà questo e quelli. Il corpo non è per l'impudicizia, bensì per il Signore, e il Signore è per il corpo. E Dio, che ha risuscitato il Signore, risusciterà anche noi con la sua potenza. Non sapete che i vostri corpi sono membra di Cristo? Prenderò dunque le membra di Cristo e ne farò membra di meretrice? Non sia mai. O non sapete che chi si unisce a una meretrice forma un corpo solo? I due formeranno, dice, una sola carne. Ma chi si unisce al Signore forma con Lui un solo spirito. Fuggite l'impudicizia. Qualsiasi peccato l'uomo commetta sta fuori del corpo. Ma chi commette impudicizia pecca contro il proprio corpo. O non sapete che il vostro corpo è santuario dello Spirito Santo che è in voi, che avete da Dio e che non appartenete a voi stessi? Siete stati comprati a prezzo. Glorificate dunque Dio nel vostro corpo. Riguardo poi alle cose di cui mi avete scritto. È cosa buona per l'uomo non avere contatti con donna. Tuttavia, a motivo delle impudicizie, ciascuno abbia la sua moglie e ogni donna il suo marito. Il marito renda alla moglie ciò che le è dovuto, egualmente anche la moglie al marito. La moglie non è padrona del proprio corpo, ma lo è il marito. Allo stesso modo il marito non è padrone del proprio corpo, ma lo è la moglie. Non privatevi l'un l'altro se non di comune accordo, temporaneamente, per attendere alla preghiera, e poi ritornate a stare insieme, perché Satana non vi tenti per la vostra incontinenza. Questo vi dico in spirito di condiscendenza, non di comando. Vorrei che tutti fossero come me, ma ciascuno ha il proprio dono da Dio, chi in un modo, chi in un altro. Ai celibi e alle vedove dico che è cosa buona per loro rimanere come sono io. Ma se non sanno contenersi, si sposino. È meglio sposarsi che ardere. Agli sposati ordino, non io, ma il Signore, che la moglie non si separi dal marito, e qualora si separi, rimanga senza sposarsi, o si riconcili con il marito, e che il marito non ripudi la moglie. Agli altri dico io, non il Signore. Se un fratello ha la moglie pagana, e questa consente a coabitare con lui, non la ripudi. E la donna che abbia il marito pagano, se questi consente ad abitare con lei, non lo ripudi. Perché il marito pagano viene reso santo dalla moglie, e la moglie pagana viene resa santa dal fratello. Altrimenti i figli sarebbero impuri, mentre invece sono santi. Ma se il pagano vuole separarsi, si separi. In questi casi il fratello o la sorella non sono vincolati. Dio vi ha chiamati alla pace. E che sai tu, moglie, se salverai il marito? O che sai tu, marito, se salverai la moglie? Fuori di questi casi ciascuno si comporti come gli ha dato il Signore, come era quando fu chiamato da Dio. Così ordino in tutte le chiese. È stato chiamato un circonciso? Non lo nasconda. È stato chiamato uno non circonciso? Non si faccia circoncidere. La circoncisione non conta nulla e la incirconcisione non conta nulla. Conta l'osservanza dei comandamenti di Dio. Ciascuno rimanga nella condizione in cui era quando fu chiamato. Sei stato chiamato da schiavo? Non ti preoccupare. Ma anche se hai la possibilità di renderti libero, profittane. Perché lo schiavo che è stato chiamato nel Signore è liberto del Signore. Similmente, il libero che è stato chiamato è schiavo di Cristo. Siete stati comprati a prezzo. Non diventate schiavi di uomini. Ciascuno, o fratelli, rimanga davanti a Dio in quella condizione in cui era quando è stato chiamato. Riguardo alla verginità, non ho precetti dal Signore, ma do un consiglio, come uno che merita fiducia per la misericordia del Signore. Penso dunque che sia bene per l'uomo, a motivo della necessità presente, regolarsi così. Ti trovi legato a una donna? Non cercare di scioglierti. Non ti trovi legato a una donna? Non andare a cercarla. Però se ti sposi non fai male, né fa male la vergine che si sposa. Ma costoro avranno tribolazioni nella carne, e io vorrei risparmiarvele. Questo vi dico, fratelli, il tempo ha avuto una svolta. D'ora innanzi quelli che hanno moglie siano come non l'avessero, quelli che piangono come non piangessero, quelli che si rallegrano come non si rallegrassero, quelli che comprano come non possedessero, quelli che usano del mondo come non ne usassero a fondo, perché passa la figura di questo mondo. Ed io vorrei vedervi senza preoccupazioni. Chi non è sposato si preoccupa delle cose del Signore, come piacere al Signore. Lo sposato invece si preoccupa delle cose del mondo, come piacere alla moglie, e si trova diviso. Così anche la donna non sposata e la vergine si preoccupano delle cose del Signore per essere sante nel corpo e nello spirito. La sposata invece si preoccupa delle cose del mondo, come piacere al marito. Questo dico a vostro vantaggio, non per gettarvi un laccio, ma per indirizzarvi a ciò che è degno e conduce al Signore senza distrazioni. Se però qualcuno teme di non comportarsi bene con la sua vergine, quando sia in piena età e conviene che così avvenga, faccia quello che desidera. Non pecca, si sposino. Chi invece ha deciso fermamente nel suo cuore, senza esservi costretto, ma è padrone della sua volontà e ha deliberato in cuor suo di conservare la sua vergine, fa bene. In conclusione, colui che sposa la sua vergine fa bene e chi non la sposa fa meglio. La moglie è vincolata per tutto il tempo in cui vive il marito, ma se il marito muore è libera di sposare chi vuole, purché ciò avvenga nel Signore. Ma se rimane così è meglio, a mio avviso, e credo di avere anch'io lo Spirito di Dio. Riguardo alle carni immolate agli idoli, noi sappiamo, poiché abbiamo tutti la scienza, ma la scienza gonfia, mentre la carità edifica. Se alcuno crede di sapere qualche cosa, non ha ancora appreso come bisogna sapere. Chi invece ama Dio è conosciuto da Lui. Riguardo dunque al mangiare le carni immolate agli idoli, noi sappiamo che un idolo è nulla al mondo e che non esiste che un Dio solo. Anche se infatti vi sono delle pretese divinità nel cielo e sulla terra, come di fatto vi sono molti dei e molti signori, per noi c'è un solo Dio, il Padre, dal quale tutto proviene e noi siamo per Lui, e un solo Signore, Gesù Cristo, per mezzo del quale sono tutte le cose e noi siamo per mezzo di Lui. Ma non tutti hanno la scienza. Anzi, alcuni,

Faccio il pugilato, ma non come chi batte l'aria, bensì tratto duramente il mio corpo e lo trascino in schiavitù, perché non succeda che, mentre predico agli altri, venga riprovato io stesso. Non voglio infatti che ignoriate, o fratelli, che i nostri padri sono stati tutti sotto la nube, tutti hanno attraversato il mare, tutti sono stati battezzati in Mosè, nella nube e nel mare, tutti hanno mangiato lo stesso cibo spirituale, tutti hanno bevuto la stessa bevanda spirituale. Bevevano infatti da una roccia spirituale che li accompagnava. Quella roccia era Cristo. Ma Dio non si compiacque della maggior parte di loro e furono atterrati nel deserto. Queste cose accaddero come esempi per noi, perché non desiderassimo cose cattive come essi le desiderarono. Non divenite idolatri come alcuni di loro, come sta scritto: il popolo si sedette a mangiare e a bere e poi si alzò a divertirsi. Né abbandoniamoci alla fornicazione, come si abbandonarono alcuni di essi, e ne caddero in un solo giorno 23.000. Né mettiamo alla prova il Signore, come alcuni di essi lo misero, e caddero vittime dei serpenti. Né mormorate, come mormorarono alcuni di essi, e caddero vittime dello sterminatore. Ora tutte queste cose accaddero a loro in figura, e sono state scritte per ammonimento nostro, di noi, per i quali è giunta la fine dei tempi. Quindi chi crede di star dritto, guardi di non cadere. Nessuna tentazione vi ha mai colti se non umana. E Dio è fedele, e non permetterà che siate tentati oltre le forze, ma con la tentazione darà anche il mezzo di sopportarla. Perciò, o miei cari, fuggite l'idolatria. Parlo come a persone intelligenti. Giudicate voi stessi quello che dico. Il calice della benedizione che noi benediciamo non è comunione con il sangue di Cristo. Il pane che spezziamo non è comunione con il corpo di Cristo. Essendo uno solo il pane, noi siamo un corpo solo, sebbene in molti, poiché partecipiamo tutti dello stesso pane. Guardate l'Israele secondo la carne. Quelli che mangiano del sacrificio non sono forse in comunione con l'altare? Che dico dunque? Che la carne immolata agli idoli è qualche cosa? O che un idolo è qualche cosa? No, anzi, quello che sacrificano ai demoni lo sacrificano, e non a Dio. Ora io non voglio che voi entriate in comunione con i demoni. Non potete bere il calice del Signore e il calice dei demoni. Non potete partecipare alla tavola del Signore e alla tavola dei demoni. O vogliamo provocare la gelosia del Signore? Siamo forse più forti di Lui? Tutto è lecito, ma non tutto giova. Tutto è lecito, ma non tutto edifica. Non si cerchi l'utile proprio, ma quello altrui. Tutto ciò che è in vendita sul mercato, mangiatelo senza indagare per motivo di coscienza, perché del Signore è la terra e tutto ciò che contiene. Se qualche pagano vi invita e vi piace andare, mangiate tutto quello che vi si presenta, senza indagare per motivi di coscienza. Ma se qualcuno vi dicesse: è carne immolata agli idoli, astenetevi dal mangiare, per riguardo a colui che vi ha avvertito e della coscienza. Della coscienza dico non tua, ma dell'altro. Per quale motivo, infatti, la mia libertà dovrebbe venir giudicata da un'altra coscienza? Se io me ne cibo con rendimento di grazie, perché dovrei essere biasimato di quello per cui rendo grazie? Sia dunque che mangiate, sia che beviate, o qualsiasi cosa facciate, fate tutto per la gloria di Dio. Non date motivo di inciampo né ai giudei, né ai greci, né alla Chiesa di Dio. Così come io cerco di piacere a tutti in tutto, senza cercare l'utile mio, ma quello dei molti, perché giungano alla salvezza. Fatevi miei imitatori, come io lo sono di Cristo. Vi lodo poi, perché vi ricordate molto di me, e conservate le tradizioni come ve le ho trasmesse. Voglio che sappiate che capo di ogni uomo è Cristo, e capo della donna è l'uomo, e capo di Cristo è Dio. Ogni uomo che prega o profetizza con il capo coperto manca di riguardo al suo capo. Così ogni donna che prega o profetizza senza velo sul capo, manca di riguardo al suo capo, come se fosse rasa. Che se una donna non si copre, si tagli pure i capelli, ma se è vergogna per una donna tagliarsi i capelli o essere rasa, allora si copra. L'uomo non deve coprirsi il capo, essendo immagine e gloria di Dio, mentre la donna è gloria dell'uomo, poiché non l'uomo deriva dalla donna, ma la donna dall'uomo. Né l'uomo fu creato per la donna, ma la donna per l'uomo. Per questo la donna deve portare un segno di dipendenza sul capo, a motivo degli angeli. Tuttavia, nel Signore, né la donna è senza l'uomo, né l'uomo è senza la donna. Se infatti la donna deriva dall'uomo, anche l'uomo ha vita dalla donna, e tutto proviene da Dio. Giudicatene voi stessi. È conveniente che una donna faccia preghiera a Dio col capo scoperto. Non ci insegna la natura stessa che è indecoroso per un uomo lasciarsi crescere i capelli, mentre è onorifico per una donna lasciarseli crescere. La chioma è data a lei a guisa di velo, che se alcuno vuole contestare, noi non abbiamo questa consuetudine, e neanche le chiese di Dio. E mentre vi do questi ordini, non possono darvi, perché le vostre riunioni non sono per vostro vantaggio, ma per vostro danno. Sento innanzitutto che quando vi radunate in assemblea vi sono divisioni tra voi. E in parte lo credo. È necessario, infatti, che avvengano anche divisioni tra di voi, affinché si manifestino quelli che sono di virtù provata in mezzo a voi. Quando dunque vi radunate insieme, il vostro non è un mangiare la cena del Signore. Infatti ciascuno, partecipando alla cena, mangia prima il proprio pasto, e così l'uno ha fame e l'altro è ubriaco. Non avete forse le vostre case per mangiare e bere? O volete gettare il disprezzo sulla Chiesa di Dio e fare arrossire chi non ha niente? Che devo dirvi? Devo lodarvi? In questo non vi lodo. Io ho ricevuto dal Signore quello che vi ho trasmesso, che il Signore Gesù, nella notte in cui fu tradito, prese del pane e, reso grazie, lo spezzò e disse: «Questo è il mio corpo che è per voi, fate questo in memoria di me». Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese anche il calice dicendo: «Questo calice è la nuova alleanza nel mio sangue, fate questo tutte le volte che ne berrete in memoria di me». Quindi tutte le volte che voi mangiate questo pane e bevete a questo calice, annunziate la morte del Signore finché Egli venga. Perciò chiunque mangia il pane o beve al calice del Signore indegnamente è reo del corpo e del sangue del Signore. Ciascuno esamini se stesso e poi mangi il pane e beva il calice. Perché chi mangia e beve senza discernere il corpo, mangia e beve la propria condanna. È per questo che tra voi vi sono molti malati e infermi, e un buon numero sono morti. Che se ci esaminassimo noi stessi, non verremmo giudicati. Ma messi sull'avviso dal Signore, veniamo corretti, per non essere poi condannati insieme al mondo. Quindi, o miei fratelli, quando vi radunate per la cena, aspettatevi gli uni gli altri. E se qualcuno ha fame, mangi a casa, onde non vi raduniate per vostra condanna. Quanto al resto, darò disposizioni quando verrò. Riguardo ai doni dello Spirito, fratelli, non voglio che restiate nell'ignoranza. Sapete che quando eravate pagani vi lasciavate trasportare verso gli idoli muti secondo l'ispirazione del momento. Perciò vi dichiaro che nessuno, mosso dallo Spirito di Dio, può dire maledizione a Gesù. E nessuno può dire Gesù Signore se non in virtù dello Spirito Santo. C'è poi varietà di doni, ma un solo Spirito. C'è varietà di ministeri, ma un solo Signore. C'è varietà di operazioni, ma un solo Dio che opera tutto in tutti. E da ciascuno è data la manifestazione dello Spirito per l'utilità comune. A uno viene data dallo Spirito parola di scienza, a uno la fede per lo stesso Spirito, a un altro il dono delle guarigioni nell'identico Spirito, a uno il potere dei prodigi, a un altro il dono della profezia, a un altro il discernimento degli spiriti, a un altro la varietà delle lingue, a un altro l'interpretazione delle lingue. Ma tutte queste cose le opera il medesimo e identico Spirito, distribuendole a ciascuno come vuole. Come il corpo, pur essendo uno, ha molte membra, e tutte le membra, pur essendo molte, sono un corpo solo, così anche il Cristo. Siamo stati infatti battezzati tutti in un solo Spirito per formare un corpo solo, sia giudei, sia greci, sia schiavi, sia liberi. E tutti siamo stati abbeverati nel medesimo Spirito. Ora, il corpo non risulta di un membro solo, ma di molte membra. Se il piede dicesse, siccome io non sono mano, non appartengo al corpo, non per questo non farebbe parte del corpo. E se l'orecchio dicesse, siccome io non sono occhio, non appartengo al corpo, non per questo non farebbe parte del corpo. Se il corpo fosse tutto occhio, dove sarebbe l'udito? Se fosse tutto udito, dove l'odorato? Ma Dio ha disposto le membra in modo distinto nel corpo, come ha voluto. Che se tutto fosse un membro solo, dove sarebbe il corpo? Invece molte sono le membra, ma uno solo è il corpo. E l'occhio non può dire alla mano, non ho bisogno di te, né la testa ai piedi, non ho bisogno di voi, che anzi quelle membra del corpo che sembrano più deboli sono più necessarie, e quelle che riteniamo più ignobili le circondiamo di maggior rispetto, e quelle indecorose ricevono più riguardo, mentre quelle decorose non ne hanno bisogno. Ma Dio ha contemperato il corpo, conferendo maggiore onore a chi ne mancava, perché non vi fosse disunione nel corpo, ma le membra cooperassero al bene vicendevole. Quindi, se un membro soffre, tutte le membra ne soffrono. Se un membro è onorato, tutte le membra gioiscono con lui. Ora voi siete corpo di Cristo e sue membra, ciascuno in particolare. Alcuni sono stati posti da Dio nella Chiesa al primo grado come apostoli, al secondo come profeti, al terzo come dottori. Poi vengono i prodigi, poi i doni di guarigione, quelli che hanno il dono dell'assistenza, del governo, delle lingue. Sono forse tutti apostoli, tutti profeti, tutti dottori, tutti operatori di prodigi? Tutti possiedono doni di guarigione? Tutti parlano in lingue? Tutti fanno da interpreti? Voi però aspirate ai doni maggiori. Or io vi addito una via ancora più eccellente. Se anche parlo le lingue degli uomini e degli angeli, ma non ho la carità, sono un bronzo sonante o un cembalo squillante. E se anche ho il dono della profezia e conosco tutti i misteri e tutta la scienza, e se anche possiedo tutta la fede, sì da trasportare le montagne, ma non ho la carità, non sono niente. E se anche distribuisco tutte le mie sostanze, e se anche do il mio corpo per essere bruciato, ma non ho la carità, non mi giova nulla. La carità è magnanima, è benigna la carità, non è invidiosa. La carità non si vanta, non si gonfia, non manca di rispetto, non cerca il suo interesse, non si adira, non tiene conto del male ricevuto, non gode dell'ingiustizia, ma si compiace della verità. Tutto scusa, tutto crede, tutto spera, tutto sopporta. La carità non avrà mai fine. Le profezie scompariranno, il dono delle lingue cesserà, la scienza svanirà. Conosciamo infatti imperfettamente e imperfettamente profetizziamo. Ma quando verrà la perfezione sarà abolito ciò che è imperfetto. Quando ero bambino, parlavo da bambino, pensavo da bambino, ragionavo da bambino. Ma quando mi sono fatto adulto, ho smesso ciò che era da bambino. Adesso vediamo come in uno specchio, in immagine. Ma allora vedremo faccia a faccia. Adesso conosco in parte, ma allora conoscerò perfettamente, come perfettamente sono conosciuto.